Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È indispensabile che vinca il sì, scherziamo. È indispensabile. Se vince il no, perché c'è chi dice se vince il no è un disastro, no, ma se vince ma il no rimane uguale. Il giorno dopo che ha vinto il no, ma il morale, vabbè, ma diciamo, peggio della Brexit, come si dice, ti do tutti, peggio della Brexit. Addirittura. Peggio della Brexit, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, secondo Benigni sarebbe l'eventuale no al referendum, ne parlava in questa intervista con Le Iene e subito si è scatenata la polemica naturalmente da parte delle opposizioni e di coloro che invece sono orientati verso il no. Ma c'è un'altra polemica che si è abbattuta sul referendum, è un ricorso al TAR che hanno fatto Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana sul quesito referendario, perché dicono così come posto è uno spot al sì, però il Quirinale ha risposto che questo quesito è già passato dalla valutazione positiva della Cassazione e su questo ci sarà stasera effetto notte, raggiungeremo il giudice emerito della consulta costituzionalista Sabino Cassese, notissimo costituzionalista Sabino Cassese, e poi ci saranno altri temi, per esempio ci chiediamo come mai che i conti non tornano mai oppure non combaciano mai. Padoan sono diversi giorni che difende le previsioni di crescita dell'Italia nel 2017 per più 1%, mentre Banca Italia, l'ufficio parlamentare per il bilancio eccetera l'hanno criticato dicendo che sono previsioni troppo ambiziose, forse fantasiose. Insomma, cercheremo di capire com'è che sono così posizioni contrastanti. Voi con le vostre disposizioni invece, come sempre, per interagire qui Effetto Notte avete a disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per gli SMS e WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666 o pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto, come rito iniziale, vi racconto in sintesi la giornata. Referendum, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana fanno un esposto al TAR contro il testo del quesito referendario che, così formulato, dicono è uno spot pubblicitario a favore del sì. Il Quirinale replica all'avallo della Cassazione. Economia, Padoan difende la manovra, i numeri del DEF dice sono realizzabili. Bruxelles torna la paura a attentati, feriti due agenti, per il governo è un atto di terrorismo. Air France teme la presenza di dipendenti radicalizzati. Migranti in 10.000 salvati nel canale di Sicilia, 28 i morti e Juncker, come Renzi dice il vertice di Bratislava, è stato deludente, servono i fatti. Esselunga stoppa la vendita, aperto il testamento di Caprotti alla moglie e alla figlia Marina e il controllo dell'azienda. L'architetto ucciso nel Comasco, risolto il giallo, i mandanti furono la moglie e l'amante, il movente e l'affidamento delle figlie. Roma muore di cancro al pronto soccorso, il figlio scrive alla ministra Lorenzin, tolta la dignità a mio padre, 56 ore di agonia nell'indifferenza. Alma Viva chiude a Roma e Napoli, riduzione dell'organico di 2.511 persone. Nobel, quello per la chimica, va ai tre meccanici del Minimondo, delusione per il riconoscimento mancato all'italiano Balzani. E partiamo quindi dalla politica, vi dicevo, da questa nuova polemica sul referendum. Il referendum costituzionale finisce in tribunale. Il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana presentano ricorso al TAR contro il testo del quesito del 4 dicembre. Così formulato, dicono, si traduce in uno spot pubblicitario a favore del sì. E la protesta sale al Quirinale, che ha predisposto il decreto su proposta del governo. Soprattutto non si specificano gli articoli della Costituzione interessati alla riforma. Per Beppe Grillo, poi, non ci sono dubbi, il no vincerà secondo il fondatore del Movimento 5 Stelle. Non ho dubbi, leggete il Financial Times, come dicono gli inglesi oggi, e vedete quali sono i dubbi, chi vince il sì o il no. Cioè che vincerà il no perché siamo in mano a dei bluffisti. Ma sul quesito è immediata la replica della Presidenza della Repubblica. Il quesito è stato valutato e ammesso dalla Corte di Cassazione e riproduce il titolo della legge approvata dal Parlamento. Scoppia poi il caso Benigni. Il regista torna a sostenere il sì, affermando che la vittoria del no sarebbe peggio della Brexit. Insorgono le opposizioni, un giullare di corte. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi su tutto questo ci torniamo, vi dicevo, anche con il costituzionalista Sabino Cassese. Intanto Renzi da Treviso rilancia sulle riforme. A Genova in serata ad inaugurare i lavori del terzo lotto per la messa in sicurezza del Bisagno, prima a Treviso ad incontrare imprenditori e operai. Tra Veneto e Liguria, tra nord-est e nord-ovest, il premier Matteo Renzi rilancia sulle riforme a sostegno del sì al referendum del 4 dicembre e replica ai 5 Stelle e a Sinistra Italiana che hanno presentato ricorso al TAR sulla formulazione del quesito. Questo è il quesito, spiega, che la legge prevede per il referendum costituzionale. E attacca. Non è una svolta autoritaria, questo è un luogo comune privo di senso. Sul superamento del bicameralismo perfetto, asse portante delle riforme, spiega così la ragione d'essere del nuovo Senato. Un Senato meno importante? Sì, un Senato meno importante, perché non ha più il voto di fiducia, che deve intervenire non con nuovi politici, ma con i sindaci e i presidenti della regione, i rappresentanti delle regioni più correttamente, e questo Senato si trova per discutere delle leggi che riguardano le autonomie territoriali e che riguarda l'Europa, per dire l'applicazione delle norme europee. Guardate che è un meccanismo che c'è dappertutto. Guardando l'America, Renzi riprende il titolo del film di Monicelli, Speriamo che sia femmina, dice, e rilancia per un nuovo modello d'Europa, non più l'Europa dei vitalizi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo all'economia con la manovra economica allo studio del governo. Palazzo Chigi torna a difendere gli obiettivi di bilancio. I numeri del DEF, del documento di economia e finanza, non sono basati sulla fantasia, dice il ministro dell'economia Padoan. Palazzo Chigi potrebbe anticipare la manovra varando la legge di bilancio prima del 15 ottobre per permettere quindi l'invio del testo a Bruxelles entro lunedì 17. Un quadro economico, quello al quale stanno lavorando i tecnici del Tesoro, che negli obiettivi del governo dovrebbe permettere di raggiungere le stime anticipate nel documento di economia e finanza e che il ministro Padoan torna a difendere. I numeri che produciamo sono basati su una valutazione molto attenta degli impatti, non sono quindi basati né su fantasie né su aspettative irrealizzabili. Non ci possiamo permettere di sprecare risorse se abbiamo conoscenza del fatto che una misura funziona meglio di altre, dice ancora Padoan, che rivendica quindi il successo sui mercati del BTP a 50 anni. Della legge di bilancio parla anche il presidente di Confindustria. Siamo obbligati a crescere, spiega Boccia. Investimenti privati. È evidente che con un debito pubblico che abbiamo, Confindustria non può fare la lista della spesa delle aspettative da sogno, ma deve essere corresponsabile all'interno di un grande paese quale il nostro. Abbiamo chiesto al governo di non intervenire sui contratti, ma sulla produttività, detassando i premi di produzione, dice ancora Boccia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi pomeriggio è stato aperto il testamento di Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga. Caprotti mette il destino di Esselunga nelle mani della moglie e della figlia Marina. Intanto la holding Supermarket Italiani dice stop alla vendita. Alle 18 questo pomeriggio, nello studio del notaio Carlo Marchetti, è stato aperto il testamento. La legittima, così come si chiama, riserva il 25% dell'asse ereditario alla moglie Giuliana Albera e il 50% ai figli di primo letto Giuseppe e Violetta, e a Marina, figlia di secondo letto, a ognuno di loro insomma il 16,66% a testa. Il restante 25% di cui poteva disporre lo ha diviso tra Giuliana e Marina, così che le due donne, moglie e figlia, avranno il 67,7% del capitale, praticamente quasi il 70%. Caprotti inoltre ha lasciato la metà dei suoi risparmi alla segretaria Germania Chiodi, alla quale negli anni passati aveva già fatto una donazione milionaria, e per l'altra metà ai nipoti. La holding ha nominato presidente Pier Gaetano Marchetti al posto del fondatore. Una notizia che riguarda Almaviva Contat, la più grande azienda di call center, ha annunciato oggi l'apertura di una procedura di riduzione del personale all'interno di un nuovo piano di riorganizzazione aziendale. Prevede la chiusura dei siti produttivi di Roma e di Napoli e una riduzione del personale pari a 2.511 persone. Passiamo alle notizie dall'estero. Ancora l'incubo del terrorismo a Bruxelles. Un uomo ha accoltellato 3 agenti e per la procura si tratta di un attentato terroristico. Ex militare belga, già noto alla giustizia per i contatti in Siria e citato in vecchi dossier di terrorismo. La storia si ripete. L'uomo che ha ferito 3 agenti di polizia a Bruxelles, nel quartiere di Schaerbeek, fucina insieme a Malbec di terroristi e jihadisti, era conosciuto dalle forze dell'ordine. Tant'è che quasi subito la procura federale ha parlato di attentato terroristico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, Hisham, 43 anni, ha reagito a un controllo accoltellando 2 agenti, non in pericolo di vita, uno al collo, l'altro allo stomaco. Mentre tentava di scappare è stato intercettato da un terzo poliziotto che lo ha fermato, ferendolo a una gamba. Nelle stesse ore ci sono stati due allarmi bomba, poi rientrati all'edificio Portalis, sede della procura, e alla Gare du Nord. In più, Le Monde ha svelato un'inchiesta secondo la quale gli attacchi del 13 novembre a Parigi e del 22 marzo a Bruxelles facevano parte dello stesso progetto e furono affidati dall'ISIS a un'unica cellula. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo Air France teme la presenza di dipendenti radicalizzati con guasti misteriosi ai motori. Scritte all'Akhbar sugli aerei ricorrenti a episodi giudicati anomali hanno messo sul chi vive la direzione di Air France, che teme una recrudescenza di radicalizzazione fra i propri dipendenti. Tra i fatti emersi, un aereo che si sarebbe visto rifiutare il permesso di atterraggio in quanto era pilotato da una donna, e secondo un'indiscrezione del settimanale Canard Enchaîné, la compagnia non parla di rischi per il personale e clienti, ma un comandante avrebbe di recente rifiutato di decollare dopo un ennesimo incidente. Parliamo adesso della guerra in Siria. Secondo gli Stati Uniti, la Russia si sarebbe resa colpevole di un crimine di guerra. Secondo un esperto delle Nazioni Unite, la morte di 18 persone appartenenti a un convoglio umanitario avvenuta il 30 settembre sarebbe stata causata da un bombardamento aereo, che costituirebbe quindi un crimine di guerra. Per gli Stati Uniti la responsabilità è della Russia, anche se Mosca continua a negare. Intanto l'ONU ha dichiarato ufficialmente sotto assedio i quartieri di Aleppo Est. Da mesi la parte della città controllata dalle forze ribelli al regime di Assad è accerchiata dall'esercito governativo. Le 275.000 persone che vivono nella zona non hanno accesso ad aiuti umanitari, non possono circolare liberamente e sono vittime di continui bombardamenti. Medici Senza Frontiere denuncia che nell'area ci sono solo 4 ospedali e 7 chirurghi in grado di curare feriti di guerra. In cerca di una soluzione diplomatica, il ministro degli esteri francese andrà a Mosca e a Washington. L'obiettivo è quello di ottenere l'interruzione dei bombardamenti su Aleppo e la riapertura dei canali umanitari per la popolazione assediata. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continua a soffiare l'uragano Matthew, potrebbe essere devastante per la Florida, e anche il presidente americano Obama mette in guardia la popolazione dopo aver fatto visita al quartier generale della protezione civile americana. E Obama ha detto che potrebbero esserci gravi conseguenze e ha invitato i residenti a seguire gli ordini di evacuazione. Parliamo ancora di migranti, sono oltre 10.000 i migranti tratti in salvo negli ultimi 2 giorni nel corso di 72 distinte operazioni di soccorso nel canale di Sicilia, recuperati anche 28 cadaveri. Intanto il presidente della Commissione europea Juncker pungola i governi dopo il vertice di Bratislava, dice non è uscita una roadmap che non risponde alle aspettative per concretezza, e sui migranti chiede di lanciare un'offensiva di investimenti per l'Africa. E per quanto riguarda la cronaca italiana, svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Alfio Vittorio Molteni, architetto ucciso nel Comasco nell'ottobre scorso, arrestati la moglie dalla quale si stava separando e un commercialista con cui la donna aveva una relazione. Sono considerati i mandanti di questo delitto e gli autori degli atti intimidatori che lo hanno preceduto. La svolta nell'indagine è stata l'individuazione del movente grazie alle carte sulla separazione fra i due. Sembra che fosse dovuto all'affidamento delle figlie. E poi a Roma questa brutta storia, tristissima, l'agonia di un malato terminale per un tumore deceduto al pronto soccorso dell'ospedale romano San Camillo dopo più di due giorni trascorsi senza dignità tra il via vai di malati e parenti, anziani abbandonati, vagabondi e tossicodipendenti. Così ha descritto il figlio dell'uomo morto in una lettera alla ministra Lorenzina, nella quale denuncia l'indifferenza dei medici e quell'epilogo della vita dietro un paravento improvvisato per difendere un minimo di privacy. Il direttore sanitario dell'ospedale San Camillo annuncia che presto saranno realizzate aree per il fine vita. Un libro su Hitler è uscito in Germania. L'autore è il premiato giornalista berlinese Norman Ohler, che in particolare pubblica degli estratti dal diario di Theo Morrell, che era il medico personale del Führer. Ne emergerebbe che Hitler facesse uso di droghe come cocaina e altri potenti stimolanti e addirittura un uso smodato di un oppiaceo simile all'eroina, tanto da essere definibile un super drogato. E poi, a proposito invece di buone abitudini, di lunga vita e limite della vita umana, comunque 125 anni, esiste un limite invalicabile della durata, appunto 125, lo suggerisce lo studio pubblicato su Nature del Dipartimento di Genetica dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, secondo il quale la probabilità che una persona possa superare questa soglia è inferiore a 1 su 10.000. E poi per chiudere il Nobel per la chimica, che è stato assegnato alla costruzione della più piccola macchina molecolare. Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddard e Bernard Lane Feringa, francese, britannico e olandese, hanno sviluppato le prime molecole i cui movimenti possono essere controllati. Sono delle piccole molecole che sono controllabili, quindi sono in grado tramite le molecole di sceglierne i movimenti, e quindi attraverso la miniaturizzazione di questo micro motore fatto di molecole riescono a dare degli impulsi, a far compiere e riprodurre movimenti che le cellule compiono nelle condizioni naturali, come ad esempio la contrazione dei muscoli. Quindi tramite questo piccolo motore, e a livello pratico loro lo hanno sperimentato creando un robot molecolare che riesce a connettere aminoacidi, riescono a dare una movimentazione, a un controllo, a produrre degli stimoli e quindi a innescare delle reazioni. E in quali campi potrebbe essere utilizzato? I campi sono vastissimi, dall'aspetto sanitario all'aspetto dello sviluppo di nuovi materiali, di nuovi sensori, di nuovi sistemi per immagazzinare ed utilizzare energia. A spiegarlo quindi Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, al microfono della nostra Laura Bettini. Ebbene, con questo si chiude quindi questo riassunto della giornata. Adesso, come sempre, dopo la viabilità, cominciamo a entrare un po' nel cuore degli argomenti. In particolare sentiremo un po' che cosa ne pensa il costituzionalista Sabino Cassese di questa polemica, di questo ricorso al TAR del Movimento 5 Stelle di Sinistra Italiana sul testo del quesito referendario. Poi molti altri temi. Intanto arrivano i vostri messaggi. Scrive: e ti pareva che Mo non appariva Benigni? Anche su questo avete sentito che è scoppiata la polemica sul fatto che Benigni è ritornato sulla necessità del sia referendum. 349-238-6666, numero per WhatsApp e SMS, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi. Dice Annalisa: se vince il sì dalla gioia mi ubriaco. Invece dice un altro ascoltatore: se il no è peggio della Brexit, va bene visto che la Gran Bretagna è in ripresa. Insomma, posizioni contrastanti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. Ma adesso le notizie più importanti. Battaglia sul referendum al TAR, ricorso del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ne parleremo tra pochissimo con Sabino Cassese. Poi il ministro Padoan anche difende la manovra, Banca Italia dice però sono necessarie meno tasse alle imprese. E ancora il testamento di Caprotti, fondatore dell'Esselunga, è stato aperto alla moglie e alla figlia di secondo letto, il 66,7% di Esselunga. Torna la paura attentati a Bruxelles, feriti due agenti, secondo Le Monde a Parigi e in Belgio c'era stato un unico piano terroristico. E poi risolto il giallo dell'architetto ucciso nel Comasco, furono moglie e amante, il movente, l'affidamento delle figlie. E il Nobel per la chimica, che è stato assegnato a tre studiosi meccanici del minimondo, delusione per il riconoscimento mancato all'italiano Balzani, che con loro aveva collaborato. Partiamo subito da questa polemica sul referendum costituzionale, quello su cui si vota il prossimo 4 dicembre. C'è questa nuova polemica che lo riguarda, no? Dopo mesi di dibattito acceso che continua naturalmente, campagna elettorale, schieramenti opposti, c'è questa nuova polemica perché Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana hanno presentato un esposto al TAR del Lazio, al Tribunale Amministrativo Regionale, contro il testo di questo quesito referendario, perché dicono così formulato si traduce in uno spot pubblicitario a favore del sì. Però poi nel pomeriggio fonti del Quirinale hanno replicato all'affermazione dei ricorrenti che impropriamente hanno attribuito alla Presidenza della Repubblica la formulazione del quesito referendario, e chiariscono dal Quirinale, dicono: il quesito è stato valutato e ammesso con proprio provvedimento dalla Corte di Cassazione, quindi non dal Quirinale, e riproduce il titolo della legge quale è stata approvata dal Parlamento. Poi è scoppiato anche il caso Benigni, eccetera, eccetera. Questa è un'altra faccenda. Però Andiamo quindi al testo di questo quesito. Tra l'altro è in stile molto diverso rispetto a quelli del passato, perché c'è una legge che ha chiesto di semplificarlo. E che cosa dice questo testo? Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. Questo dice il testo. E come si vota? Alla fine di questo quesito ci sono due caselle, una con il sì, una con il no, e ognuno barra in base alla propria scelta con una X. Non c'è il quorum, quindi vince la scelta indicata dalla maggioranza di chi va a votare. Però che cosa succede? Che se da una parte la semplificazione aiuta a leggere meglio questo testo, a chiarire, dall'altra appunto fa scoppiare questa polemica. Allora coinvolgo l'esimio professore Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore. Professore Cassese, buonasera. Buonasera. E grazie di essere qui. Allora, ci sono gli estremi per questo ricorso. A lei che pare di questo testo? Guardi, era una scelta necessitata per questo motivo, che noi voteremo su un referendum relativo ad una legge approvata quattro volte, due volte dalla Camera e due volte dal Senato, le ultime due volte a maggioranza assoluta, legge che ha questo titolo. Questo è il primo motivo per cui la scelta era obbligata. Il secondo motivo per cui la scelta era obbligata è che deve giudicare la Corte di Cassazione, che relativamente ha all'ammissibilità, che ha giudicato e che ha giudicato legittimo, ma la stessa Corte di Cassazione non poteva fare che questo. Non è che ci si potesse inventare un'altra domanda. La domanda è quella che si evince dal titolo della legge. Il titolo della legge è quello, la legge su cui dobbiamo pronunciarci è quella, e quindi bisognava prendere il titolo della legge. Certamente non si poteva, come dire, sottoporre al referendum popolare l'intero testo normativo, no? E quindi bisognava prendere il titolo della legge, e così è stato fatto. Quindi quello che prima ho letto, approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni? Perché quella domanda lì ripete il titolo della legge. Questa è già, diciamo, è una legge che è stata già approvata. Se il referendum non fosse stato chiesto, la riforma della Costituzione sarebbe già stata fatta. E il referendum, perché è passata attraverso il Parlamento questa legge. L'articolo 138 che regola le modifiche della Costituzione prevede che si faccia una proposta di riforma costituzionale che venga approvata a una certa distanza di tempo dai due rami del Parlamento due volte. E così è stato, quindi? E così è stato, che la legge abbia, come tutte le leggi, un titolo, e che la minoranza, colui che è rimasto soccombente, il perdente, abbia un'ultima possibilità di appellarsi al popolo, e questo è accaduto perché un numero di parlamentari che corrisponde a quello indicato dalla Costituzione si è appellato al popolo, ha fatto richiesta di referendum, e a questo punto la questione è sottoposta al referendum. Ma la questione che è sottoposta al referendum è stata decisa già dalle assemblee parlamentari, e se non ci fosse stata la richiesta referendaria sarebbe già diventata modifica costituzionale. E la nostra Costituzione è una Costituzione saggia, che ha previsto una procedura complessa. Ora, in questa procedura complessa naturalmente bisogna rispettare la volontà del Parlamento. Come si fa a metterci contro la volontà del Parlamento? E in che cosa consiste la volontà del Parlamento? Nella legge e nel suo titolo. E allora come si può immaginare che vi siano altre soluzioni? No, immagini il referendum, volete voi approvare la legge numero tale solamente col numero? La legge di solito si cita col numero e col titolo, insomma, no? Chiarissimo. E quindi ora legittimamente ognuno poi voterà il 4 dicembre o sì o no. Professor Sabino Cassese, la ringrazio moltissimo, è stato estremamente chiaro. Grazie a lei. Buona continuazione. Buonasera. Grazie. Buonasera. E ora farei per sentire un passaggio di Beppe Grillo a proposito del referendum. Sentiamo. Assolutamente, non ho dubbi. Non ho dubbi. Leggete il Financial Times, come dicono gli inglesi oggi, e vedete quali sono i dubbi, chi vince, il sì o il no. Vedete chi vincerà. La tua idea qual è, oltre a quella del Financial Times? È quella del Financial Times, cioè che vincerà il no perché siamo in mano a dei bluffisti. Allora, Grillo giustamente e legittimamente ha espresso il suo parere e in effetti ha fatto chiacchierare per qualche ora questo editoriale sul Financial Times, sul quotidiano britannico, di un editorialista, Tony Barber, che ha scritto: le riforme costituzionali del governo Renzi sono un, facendo il verso al ponte sullo Stretto di Messina che è stato rilanciato da Renzi, dice: le riforme sono un ponte verso il nulla. Piuttosto sarebbe meglio che l'esecutivo italiano facesse meno leggi ma di migliore qualità. Dopodiché però bisogna dire che nel pomeriggio lo stesso Financial Times ha preso le distanze dall'articolo di Tony Barber e ha detto: non è la linea del giornale, è un suo commento personale, non abbiamo enfatizzato le voci della stampa estera che si sono espresse a favore della riforma costituzionale e non ci strapperemo le vesti per le critiche di Tony Barber. Ma continua il Financial Times: ma di una cosa siamo assolutamente convinti, questa riforma è fondamentale per dare finalmente stabilità e governabilità all'Italia. Insomma, il dibattito, il ping pong continua naturalmente. Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Ciao. Commentatrice politica del Sole 24 Ore. Barbara, quindi si continua, diciamo che forse dal referendum, vabbè, quelli ce ne sono stati, insomma, dal divorzio all'aborto, eccetera, che hanno fatto tanto discutere, no? Forse lì però molto più nel merito che non in questo caso. Ma più che altro penso che fossero di più facile comprensione, ecco, nel senso che senz'altro. Sia il divorzio che l'aborto si capiva chiaramente, insomma, dove sono questioni che per le persone sono facilmente comprensibili, mentre nel caso di una riforma costituzionale bisognerebbe studiare un po' di più, cioè non è che di solito le persone a tavola parlano, mentre si può parlare della separazione. Secondo te il titolo quinto della Costituzione, no? A tavola, sì. Non credo, no? No, una coscia no. Di pollo e una lasagna, no? No. Questo no. E infatti mi sembra che tutti i sondaggi continuino a ripetere che le persone hanno soprattutto le idee poco chiare, nel senso al di là di chi è tifoso del sì o è tifoso del no per partito preso, quando si entra nel merito il cittadino comune ha ancora parecchie difficoltà a capire su che cosa si andrà a votare. Senti, sentiamo in proposito anche Parisi, che oggi ha detto sia che il suo partito non è Forza Italia, quindi lui vuole essere più ecumenico, insomma creare un nuovo centrodestra complessivamente, però è ritornato a sua volta sul referendum, che naturalmente è il tema gettonatissimo in questo periodo. Sentiamolo. Perché l'ha caricata talmente tanto di significato personale e politico che è inevitabile che questo succeda. Ecco, quindi abbiamo sentito anche Parisi e dice insomma, deve andare a casa, deve dimettersi a questo punto, perché ormai, da chi abbiamo detto aveva personalizzato Renzi per diverso tempo, è rimasta questa idea in molti che chiaramente se vince il no deve dimettersi. Sì, diciamo che questo appunto, ripetiamo, questa è stata l'iniziale campagna elettorale di Renzi, che poi si è cosparso il capo di cenere dicendo sbagliato poi la scorsa settimana, insomma. Però ormai adesso si entra nel vivo della campagna elettorale, cioè entrano in gioco gli sponsor, da una parte appunto Grillo rilancia il Financial Times, Benigni dice voto sì. Parisi era porta a porta di stasera, è registrato Parisi, sì, anticipatamente. Parisi ha detto quello che va ripetendo da tempo, insomma, c'è una parte di elettorato di Forza Italia, si rileva anche nei sondaggi, che è orientato sul sì, al di là delle prese di posizione del partito, insomma. E quindi ricordiamo la polemica che di Renzi: io guardo a destra, al voto di destra. Quindi, cioè, siamo appunto in piena campagna elettorale e ognuno gioca le carte che ha, di giorno in giorno quelle che poi si presentano, perché per esempio l'articolo del Financial Times non era certo prevedibile, quindi ognuno si gioca le sue carte. Mi sembra che al di là di questo ci sia una situazione in cui di fatto si sta andando a un verdetto sul governo a prescindere, cioè perché ormai la campagna elettorale, al di là dello incontro-scontro che abbiamo visto sulla 7 tra Zagrebelsky e il Premier, sì, continua a essere appunto più che altro slogan. Lo stesso Grillo dice i bluffisti, cioè si continua così, ora si entrerà un po' più nel merito, ma è evidente che questa storia del quesito referendario in qualche modo è stata una mossa, cioè è vero quello che diceva Cassese, questo prevede il titolo della legge, la legge probabilmente se fossero stati un pochino più attenti avrebbero dovuto presentare almeno qualche emendamento in Parlamento contro questo titolo, cosa che non è stata fatta. Quindi, come diceva, è passato la raccolta di firme loro l'hanno fatta, del no l'hanno fatta sulla base di questo titolo, cioè quindi è stato quasi legittimato, no? Cioè non c'è stata una battaglia punto... in Parlamento contro il titolo, per cui... A questo punto la battaglia deve essere giustamente nel merito. Quindi. Barbara Femmeri, tanto abbiamo modo di risentirci ancora domani, c'è una giornata cruciale per il Movimento 5 Stelle, poi comunque venerdì c'è sempre il bilancio della politica della settimana. Grazie Barbara Femmeri, buon lavoro, buona serata e ci prendiamo questa piccola pausa e poi ritorniamo insieme. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block, avanti anni luce. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Quindi sintesi della giornata come sempre all'inizio, avete sentito, non perdetevi il racconto delle notizie più importanti all'inizio di Effetto Notte e poi gli argomenti. Poco fa abbiamo parlato molto del referendum, del ricorso del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana al TAR contro il testo del quesito referendario. Ne abbiamo parlato con il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, poi abbiamo commentato anche altre questioni politiche Barbara Femmeri. Adesso invece cerchiamo di capire qualcosa di più di un altro tema. Tra poco vi ricordo quali sono i titoli più importanti e poi i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio Marco da Rimini scrive: quasi due terzi di italiani non conosce la differenza fra Parlamento e Governo, dato statistico, dice tra parentesi. Cosa volete che possa decidere su una riforma costituzionale se non puramente a sensazione o in alternativa ad minchiam, dice Marco da Rimini. E poi un altro, il problema è che tutti parlano di questioni tecniche che vanno oltre la normale comprensione dell'italiano medio che non sa esattamente per cosa andrà a votare. Vediamo se tra poco invece riusciremo a capire qualcosa di più di questioni economiche. Intanto i titoli più importanti. Referendum, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana fanno un esposto al TAR contro il testo del quesito referendario che così formulato dicono è uno spot pubblicitario a favore del sì. Il Quirinale replica all'avallo della Cassazione. Economia, Padoan difende la manovra, i numeri del DEF dice sono realizzabili. Bruxelles torna la paura, attentati, feriti due agenti, per il governo è un atto di terrorismo. Air France teme la presenza di dipendenti radicalizzati. Migranti in 10.000 salvati nel canale di Sicilia, 28 i morti, Juncker come Renzi dice il vertice di Bratislava è stato deludente, servono fatti. E se lunga stop alla vendita, aperto il testamento di Caprotti, alla moglie e alla figlia Marina, il controllo dell'azienda. L'architetto ucciso nel Comasco, risolto il giallo, i mandanti furono la moglie e l'amante, il movente e l'affidamento delle figlie. Nobel, quello per la chimica, va ai tre meccanici del minimondo, delusione invece per il riconoscimento mancato all'italiano Balzani. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è quindi atteso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Questa ambizione è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà una spinta alla crescita. Questo ha detto ieri il ministro Padoan, è tornato a parlare anche oggi in un evento organizzato dal Messaggero, obbligati a crescere. Insomma, la diatriba sulle previsioni di crescita per l'economia italiana va avanti. Il ministro Padoan e anche il presidente del Consiglio Renzi hanno ribadito che l'aumento del PIL per il 2017 è dell'1%, ma nei giorni scorsi Banca Italia, la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio hanno bollato come un po' troppo ambiziose, un po' troppo ottimistiche queste previsioni. Padoan oggi è ritornato a dire che invece sono realizzabili. Sentiamolo qua. I numeri, e questo sarà il solo accenno che farò alla questione dei numeri, i numeri che produciamo sono basati su una valutazione molto attenta degli impatti, non sono quindi basati né su fantasie né su aspettative irrealizzabili, sono aspettative realizzabili. Allora, visto che, come scrivono alcuni ascoltatori, non ci si capisce niente sul referendum, ora mi chiedo e chiedo ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. È possibile capire perché questi i conti non tornano mai o non combaciano mai? Vedo anche che l'Istat tira le file del mese di settembre, che giunge a conclusioni molto simili a quelle delle puntate precedenti, dicendo che sempre di rallentamento e di interruzione della crescita si parla in Italia. Quindi, allora, sì, purtroppo la fase è questa qua. C'è una crescita che non produce gli effetti che si sperano, l'economia gira a ritmi molto bassi e quindi tutto si gioca sulle aspettative di come sarà il 2017 e la fine del 2016. Naturalmente dipende da che tipo di modelli econometrici si fanno girare, come dicono i tecnici in gergo, e da lì nascono poi differenti tipi di proiezioni a seconda degli input che si danno. Anche Alberto, se devo dire che siamo un po' messi male se si sta a polemizzare su cosa sono degli zero virgola. No, la cosa incredibile è che questa diatriba econometrica, diciamo così, statistica, è sullo 0,1, perché stiamo parlando di una stima che non combacia tra l'1% e lo 0,9. Purtroppo però è fondamentale, perché in ragione della crescita del PIL si calcolano poi i rapporti tra il PIL e il deficit, tra il PIL e il debito, che sono poi i numeretti fondamentali con i quali noi ci giochiamo la credibilità in Europa, e giochiamo poi la grande partita della flessibilità sui conti e quel tesoretto di 8 miliardi che dovremmo riuscire a spuntare. Quindi per questo è fondamentale anche uno 0,1% che è l'oggetto poi del contendere statistico di queste ore. Detto questo, non è effettivamente facile dire adesso chi ha ragione, obiettivamente. È giusto poi che la nuance semantica, diciamo così, usata dalla Banca d'Italia, che è quella di dire che è un obiettivo ambizioso, contiene in sé anche l'eventuale raggiungimento dell'obiettivo medesimo, perché a seconda di quanto poi diventa ambiziosa l'azione di politica economica, probabilmente essa stessa riesce a creare le condizioni per arrivare poi al risultato e a creare essa stessa la crescita che si vorrebbe raggiungere. E quindi c'è un margine perché Padoan effettivamente abbia ragione, io credo. La cosa grave in termini istituzionali, diciamo così, è che all'interno di questa diatriba puramente statistica si è inserito un vulnus istituzionale, perché l'Ufficio parlamentare di bilancio, che è il centro studi indipendente della Camera, diciamo così, che ha un ruolo però specifico di avallo formale e di garante della congruità dei conti, non ha dato sostanzialmente il parere e ha definito appunto eccessivamente ottimistiche le previsioni di crescita, e questo ha creato effettivamente un problema tra governo e Parlamento in questo passaggio del documento di economia e finanza. Tanto è vero che Padoan oggi stesso, in questa kermesse di cui parlavi prima tu al Messaggero, ha specificato che farà un'integrazione al DEF, specificando meglio quali sono le azioni sugli investimenti e sui consumi che, a dire del governo, saranno proprio quelle decisive per recuperare quello 0,1% che manca. Rispetto alle stime che fanno altri istituti e non il governo, insomma. E martedì sarà ascoltato di nuovo in Parlamento Padoan. Esatto. Grazie Alberto Rioli per la tua chiarezza. Grazie a te e a voi tutti. Ciao Alberto. E poi vedo un altro messaggio tra la pagina Facebook di Fettonote, il 349-238-6666. Max Taxi, che dice: se l'obiettivo era quello di diminuire i costi della politica, sarebbe stato molto più democratico ridurre i parlamentari sia di Camera che di Senato, mantenendo un reale equilibrio bicamerale. Questo sa di sola, anche se l'obiettivo di chi vuole il sì al referendum era proprio di anche, diciamo, superare il bicameralismo perfetto. Adesso però noi dobbiamo superarci per andare verso la viabilità. Ci troviamo tra pochi istanti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. A questo punto Roberto Giordano ve le ricorda in pochi secondi le più importanti delle notizie: battaglia sul referendum, al TAR, ricorso del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. Abbiamo sentito su questo Sabino Cassese, e Benigni si schiera di nuovo per il sì con le opposizioni che insorgono. Padoan difende la manovra, ne abbiamo appena parlato, dice che sono realizzabili i numeri del DEF, e la minoranza del PD però dice ora chiarezza. A moglie e figlia di Caprotti, il fondatore di Esselunga, il 66,7% dell'azienda. Oggi è stato aperto il suo testamento. Torna la paura, attentati a Bruxelles, feriti due agenti, si parla di un attacco terroristico. E poi il premio Nobel per la chimica che va ai tre meccanici del Minimondo, delusione però per il riconoscimento mancato all'italiano Balzani, che con loro aveva collaborato. Eur- Europa 24 notte. E adesso l'Europa, arrivano i fondi europei per la mobilità di Roma con nuovi autobus e nuovi treni. Rivoluzione a 360 gradi per la mobilità di Roma e del Lazio. E ci sono già i fondi europei da impiegare. Firmato l'accordo di programma tra Regione Lazio e Roma Capitale riguardante la mobilità sostenibile integrata di Roma, in attuazione del programma di utilizzo dei fondi europei POR-FESR 2014-2020 destinati a energia sostenibile e mobilità. A partire da nuovi autobus e nuovi treni, la spinta europea sarà una svolta per Roma e per il Lazio, come spiega l'assessore regionale alle politiche del territorio e alla mobilità Michele Civita. Porterà a Roma investimenti importanti per affrontare problemi strutturali come l'acquisto di nuovi autobus, la realizzazione dei nodi di scambio e la realizzazione di tecnologie, nuove tecnologie per la mobilità urbana. In totale il finanziamento è di 54 milioni già disponibili. Per questo sta dentro il programma europeo per la mobilità sostenibile, per lo sviluppo e l'occupazione e per la lotta ai cambiamenti climatici. C'è una necessità di tutte le città di mobilità sostenibile, ma soprattutto di riammodernare, come dire, la propria rete di autobus. Questo darà un impulso, una spinta anche al parco mezzi per la mobilità di Roma e anche della regione. Vista anche la situazione di difficoltà in cui versa ATAC, i cui autobus sono nella media tra i più vecchi d'Italia, noi destiniamo circa 20 milioni per, grazie ai fondi europei, per il rinnovo del parco autobus. Questi nuovi autobus devono essere elettrici o a metano, quindi contribuiranno alla sostenibilità anche ambientale. Oltre a questo, per favorire misure di regolazione intelligente della mobilità privata in base a una collaborazione interistituzionale che negli anni noi abbiamo sviluppato col Comune di Roma, che ha approvato il suo piano urbano del traffico. Abbiamo finanziato per circa 14 milioni semafori intelligenti e comunque tecnologie per una regolamentazione migliore della mobilità privata, e poi c'è il tema dei nodi di scambio, così importanti per favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici, dai treni alle metropolitane e appunto anche agli autobus, che sono finanziati per altri 20 milioni, quindi un totale di 54 milioni che sta dentro un programma, questo specifico per Roma Capitale, che sta dentro un programma di circa 151 milioni che la Regione ha messo in campo per la mobilità. I tempi per il cambiamento a Roma e nella Regione di questo parco mezzi pubblici quali sono? Per quanto riguarda la Regione, i primi autobus arriveranno verso la fine di ottobre, tutti e 340 nuovi autobus arriveranno entro il 2017. Per quanto riguarda invece i finanziamenti che diamo a Roma si sta organizzando per fare i bandi, dipende dalle capacità del Comune di Roma e di ATAC di fare subito i bandi e quindi di utilizzare le risorse che sono già disponibili. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso occupiamoci della classifica, una consueta classifica pubblicata ogni anno da Interbrand, che è una società presente in 22 paesi e sviluppa, realizza piani di crescita per i propri clienti combinando strategia, creatività, tecnologia. Questa classifica si chiama Best Global Brands e valuta quali marchi nel mondo stanno crescendo di più a livello appunto mondiale, internazionale. È una specie di termometro, come possiamo definirlo, anche dei consumi, quindi, perché chiaramente assume man mano valore un marchio, un brand, se i consumatori lo apprezzano, e anche riusciamo così ad avere anche un termometro dell'immaginario collettivo. Allora coinvolgo subito Lidi Grimaldi, che è Executive Director di Interbrand, cioè la direttrice esecutiva di Interbrand. Buonasera Grimaldi. Buonasera. Allora, questa classifica ogni anno, come dicevo, valuta i marchi che stanno crescendo di più. Ci spiega meglio magari, io l'ho proprio sintetizzata al massimo questa cosa. Sì, Best Global Brand è uno studio che Interbrand pubblica da ormai 17 anni e il cui obiettivo è mettere in evidenza i brand globali più virtuosi nel sostenere la crescita dei loro business. Si compone di tre aree, un'area di valutazione finanziaria che è, diciamo, aderente rispetto alle metodologie di valutazione d'azienda, un'area volta ad analizzare qual è l'impatto che brand hanno nell'indirizzare le scelte dei consumatori ed in ultimo un'analisi di tipo competitivo che valuta qual è il profilo di rischio di ciascuno dei brand. E quest'anno chi si piazza in cima alla classifica? Quest'anno in cima alla classifica si riconferma Apple con una crescita rispetto allo scorso anno del 5%, il podio è condiviso con Google e Coca-Cola, che sono rispettivamente al secondo e al terzo posto. Conosciutissimi, apprezzatissimi. Però c'è un altro marchio che si sta facendo, che ha avuto un boom nell'ultimo anno, no? Tesla. Sì, esattamente. Tesla fa parte di un settore, l'automotive, che è molto ben rappresentato quest'anno all'interno del nostro ranking. Quindi una casa automobilistica. Una casa automobilistica, ancorché forse oggi è... potremmo dire riduttivo di definirla solo una casa automobilistica, in quanto è un brand che si occupa di innovazione energetica applicata. È un brand che nasce ovviamente nel mondo dell'automotive, ma che si sta allargando su altri settori, quindi il retail con le charging station, ovvero la casa. Traducendo? Ma il circuito per ricaricare le autovetture che oggi stanno sviluppando. Quelle elettriche. Tra l'altro Tesla è stata la prima a creare questa supercar elettrica, no? Esatto, ha sicuramente innovato molto nel settore. Quindi benvengano insomma tutti questi marchi che sono in grado, a parte quelli più conosciuti, di crescere, di farsi notare soprattutto grazie all'innovazione. E grazie a Lidi Grimaldi, ricordo, direttrice esecutiva di Interbrand. Grazie, buonasera e buon lavoro. Grazie mille, buonasera a lei. Adesso ancora un po' di spazio ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che vi ricordo sempre lì per voi giorno e notte, anche quando non sono in diretta con voi, e anche il numero invece per la diretta per WhatsApp, SMS, 349-238-6666. Per esempio, dice Emil, i numeri vengono girati a comodo, vedasi gli approfondimenti fatti anche da Codesta Radio. Non so cosa si riferisce Emil, però convinto lui o lei. Poi c'è invece Gianni, dice, c'è anche chi non ci va a votare, cara Roberta, per il referendum. Chiaramente ognuno è libero di fare quello che vuole, però è chiaro che se non vota qualcun altro in qualche modo indirettamente vota per lei e lui, no? Poi Francesco dice, smentiti al volo coloro che hanno fatto ricorso al Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana dalla Presidenza della Repubblica, un altro colpo di genio pentastellato a livello dell'impeachment contro Napolitano. Ci dobbiamo lasciare, ci riaggiorniamo brevemente alle 22.